alimentando. Lascia perdere l'alimentatore, può essere anche da 200 ampere. A lui, a quanto lo stai alimentando? Sarà è a 13,8. Aspetta che controllo bene, perché ce l'ho sotto. No, quello deve andare a 14,1 l'alimentazione. Anche a 14,5 ce l'ho proprio, 14,3. E poi io, adesso perché li ho cancellati, però io a te, prima dei dati, quella radio, ti ho fatto un video con il Daiwa mio, ad aghi incrociati, e mi ricordo che in AM con alta potenza mi sembra arrivava o a 100 o a 110 watt, in AM parliamo. Anche a me, Massimiliano, anche a me, potenza minima 30 watt, potenza massima 100 watt col microfono normale. Quando mettevo il microfono da tavolo, sempre quello tuo, con le piccole modulazioni saliva a 110, in AM, FM, ma la laterale era del doppio. Ma infatti mi sembra troppo strano, 9 watt, non me le ha mai date a me 9 watt questa radio. Sto pensando, Massimiliano, che non si sia, che sia tutto quel sistema dello smitter, quella cosa lì, che non ci sia qualcosa in perdita, che non ci sia qualche resistenza, qualcosa in perdita, che bisogna parlare col tecnico. Può essere, no, questo non te lo so dire, però io gli avevo mandato un video, radio mi sembra strano che dia così poco, basta scherzare. Anche a me, non lo dico perché, lo dico per dire cazzate, ma lo dico perché l'ho provata, se ti ricordi avevo telefonato e tu sei una bestia, una radio eccezionale, quella è il Cobra di Tele 200, quello è così, e poi cazzo la vita, c'è l'amplificatore sotto la pancia, già si vede che è un amplificatore più di 100 watt, quindi deve andare tutti. Non lo so, come ne segna a 30, ma se fai entrare questo Giovanni o Clark, io non lo sento. Vediamo un po', dove sei arrivato Giovanni Stanco? Brecco, sto facendo la discesa di Cosoli, come si chiama cazzo, vuol dire? Di Codrongiano, dai, Codrongiano. Dove sei, nella discesa sì. Discesa di Codrongiano. Come mi ascolti Giovanni Stanco a doppio rumbo? Forte e chiaro, già, ti ascolto bene. Ho iniziato a sentire a qualcuno da quando, come ho passato Ardara. Capo. Claudio, neanche sentito. A Claudio. Cosa Giovanni? Ho iniziato a sentirvi come ho passato Ardara. Ardara, fra Ardara e Cosola, come si chiama? Evloaghe. Ma mi sentivi Ardara a me, sì o no? A te solo sentivo, poi ti ho nominato Massimiliano. Da Ploaghe anche a Massimiliano sentivo. Allora siamo un po' chiusi con questo Ardara. Dobbiamo superare la corrente, sai ciò che dicevo di fronte. Infatti è lì che ti ho agganciato, arrivavi 5-6, 5-7. Va bene, vai Massimiliano. Avanti, no, ho capito. Italy, promo Salvini a Italia. Quale tua city, qual è? Svizzera? Massimiliano, prova a vedere se lo ascolti meglio. Me la futi, non le fa vedere, non lo tedesco. Te lo disegni, no? Già. A quanto lo stavi alimentando con la radio? A 14 e passa. Ebbene, infatti sono rimasti uguali. Che strano, mi sbaglio. Ti ripeto, io ti avevo mandato dei video, non so se li hai cancellati. Guarda a vedere se li ritrovi, perché mi sembra troppo strano che dia così pochi watt con la radio. Magari l'alimentatore, che siccome non aveva aggiustato questo alimentatore, non so se magari non dà il voce che segna, non lo so. L'aveva aggiustato, l'avevo portato a aggiustare, non hanno aggiustato, però magari è capace che non segna le stesse voce, capito? No, vabbè, dovresti mettere un test e guardare bene l'alimentazione. Adesso alimentandola a 14 e passa, i watt sono rimasti uguali. Cappa, è sempre forte. È aumentato appena, da 33. sei più avanti di 3, dai, di 3 avanti, 35 sarà. Gianni doppio room, sprechen Sie Deutsch. Achtung, Achtung, Kartoffeln, Telefunk der Volkswagen. Hi, hi, Komponent. Che? Sai, a me che sono i 9:20. Ma sei da Carlo da questa? Ah, Carlo, sì. Se parli in tedesco non ti capiamo. Aspetta, Massimiliano, Gianni, Claudio, forse c'è anche Giovanni. Giovanni che era Ploa, che poi era Codrongiano, se poi dove sei adesso dentro la galleria? Ma era tre, ma si è Giovanni, dove sei? Sei in galleria. Va bene, riprendi Carlo, buonasera. Buonasera, sono rientrato adesso, io ero in girella. Quindi ho acceso diciamo 5 minuti fa e prima ero in ascolto e adesso mi sono liberato e eccomi qua a fare 4 chiacchiere almeno sino alle 8. Poi stasera c'è la partita, la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Sì, cosa ne esce fuori? Che ormai se la giocano ad armi pari. Io spero che Parigi lo vada a rigore, perché vinca il migliore. Lui buca la Juventus, cioè, più forte l'Inter, Carlo. Vabbè, non si sa mai, perché l'Inter ha perso con squadrette gli alusiani, da diritti. E quindi, bisogna vedere come giocano, il pallone è tondo. Io guarda, spero, io sono milanista, però sono anche sportivo. Spero, per come abbia giocato tutto quest'anno il Milan, che si vinca lo scudetto, per me se lo merita, però se lo merita anche l'Inter, perché anche l'Inter è sempre lì, Ma non dicevate lo scudetto se il portiere dell'Inter lo faceva con la papera, assolutamente, perché andava a più due, e chiaramente perdendo l'Inter il Milan ha vinto e è andato a più due, se no se la giocavano a fare anche il campionato, che sono due squadre un bel forti. L'avevo dimostrato già dall'anno scorso, il Milan già meritava l'anno scorso, però quest'anno lo merita ancora di più perché fa delle rimonte spettacolari, assurde veramente, cioè stava perdendo contro Verona di brutto e ha vinto perché è una squadra che ci crede, sa giocare e ha degli ottimi giocatori, quindi se vince il Milan non ha rubato niente, se vince l'Inter vince perché è più forte. Però attenzione, perché l'Inter deve andare a Cagliari e Cagliari si deve salvare, quindi darà il massimo, e il Milan deve giocare con la Fiorentina, che la Fiorentina certo sta facendo delle spartite allucinanti. E non hai visto con la Roma, mi pare che con la Roma ha vinto così. No, solo 4 ne l'ha fatto la Roma, ma l'ha distrutta la Roma, cioè sai se vuol dire che l'ha distrutta, cioè l'ha mossa come gioco, come tutto, ed è andata bene, ne ha preso 4 solo. La Fiorentina è una bella squadra. Va bene, però diciamo che ormai siamo agli sgoccioli là, e credo che l'Inter darà tutto, il Cagliari darà tutto, il Milan darà tutto, come stasera lo stesso, sia una squadra che l'altra daranno tutto per vincere, capito? Quindi il pallone è tondo, mancano, mi pare, 2 o 3 partite. E si mette Romila con la Fiorentina, e Romila e Rugoso e l'Inter vince, e di nuovo avanti di un punto. Infatti te l'ho detto, se la giocano lì, ma non penso comunque che Milan si faccia fregare dalla Fiorentina, assolutamente. Sarà sicuramente un pareggio perché sono tutte e due forti, però il Milan si sta giocando il campionato, la Fiorentina no. Ma con la Champions si sta giocando, la Fiorentina pare che entri. Se vince l'Atalanta, entra l'Atalanta in Europa League, se no può entrare anche la Fiorentina, capito? Però sia Milan, Napoli, Inter e Juventus, che sono le prime 4, non hanno più niente a perdere, perché la Juve si è preso la Champions, è entrata in Champions, quindi un quarto posto va bene per la partenza che ha fatto, sono più che soddisfatto, ma rimane lì, non fa più niente, a meno che non perda il Napoli, poteva fare il terzo posto la Juve, capito? Se vinceva contro il Verona, perché Napoli aveva perso, noi ci ha preso contro il Verona, perciò cioè contro il Genoa, scusa, perciò vabbè, dai, facciamo girare avanti Gianni è morto, sei morto, non ci avete chiesto la luce, riprendi Carlo, ecco. diciamo, meglio alternanza, almeno, capito, un anno l'ha vinto l'Inter e quest'anno se lo vince il Milan mi fa forse più piacere, dai, perché sono juventino io, quindi un po' gliela gufo all'Inter, capito, per i titoli di cartone, capito, solo per quello. E vabbè, comunque io penso che ci sono ancora 6 punti e sarà determinante per l'Inter la partita col Cagliari. Se il Cagliari vince o pareggia e il Milan vince, ha vinto il campionato, perché ha già 2 punti di distacco dall'Inter, quindi si deve augurare il Milan che il Cagliari, diciamo, faccia la sua. Tutto lì, vai Claudio. Sì, se l'Inter perde a Cagliari e vince il Milan, vince con 3 giornate di anticipo, è matematico, va più 5, quindi è matematico. Va bene, come detto Massimiliano, vado a parlare tonda, hai visto quante partite si sono giocate, quante belle e quante brutte. Vabbè, la Juve ha fatto una partenza di buffi, comunque, meno male si è ripresa, ma ha fatto brutte figure, è rientrata in Champions, c'è al 4° posto, va bene. Avanti Gianni. Eia. Che, questo è Fabrizio. No, sono Gianni doppio rum sono. Rum. Non penso, la rosignia non c'è Gianni doppio rum. Ciao Fabrizio, buonasera, ben ascoltato. Allora. Ciao a tutti. Allora, a posto quella cosa? Sì, non a posto, di più. Era quello, boh, c'entra a fare. A occhio l'hai visto. Sì, ma solo una cosa del genere potrebbe essere quando fai un lavoro del genere. Qualcosa lì. È solo quello. No, ma non abbiamo messo l'altra scheda. Allucinante. Vabbè. Cose che possono capitare. Avanti Massimiliano, riprendi tu per salutare Fabrizio. Massimiliano non ho chiamato il telefono, vai per lei. È vero, è rimasto Carlo. Fabrizio. Ehi, ciao Carlo. Facendo le 4 chiacchiere serali, parlando un po' della partita che c'è stasera tra Inter e Juventus, finale di Coppa Italia, vediamo cosa ne esce fuori. E poi stavamo appunto parlando anche del campionato, ma ormai siamo agli sgoccioli, quindi vediamo oggi e poi vediamo la penultima, diciamo, tra Inter e Cagliari, e quella la partita determinante secondo me. Poi il Milan deve fare la sua, capito, deve cercare di vincerle tutte e due, penso che abbia sia la mentalità e la determinazione, capito, come squadra, cosa che forse è mancata un po' all'Inter, che ha un bel gioco, si conoscono i giocatori perché sono già diversi anni che sono quasi all'80% sempre gli stessi, per cui, però mi sembra più determinato il Milan, capito? Vai Massimiliano. No, Massimiliano mi ha lasciato il telefono a Gianni. Ma ragazzi, poi Fabri, cosa sono? Interisti, juventini, milanisti, cosa sono? Ma il piccolo è juventino, il grande non è che ne freghi molto, credo. Al piccolino è juventino, è piccolino. Cioè, ma è piccolino. Uno ne ha 18, l'altro quanto ne ha? 13, uno ne fa 19 e l'altro 14. Ora va le mani di Rubero, Fabri, li hai giocati, te li hai. Lo so. Stato piacere di tutti e due, piccolini, diciamo, nel passo del tempo, e a volte con mia figlia parlando così mi dice, papà ti stai invecchiando, però, già, papà ne fa 63, me ne buccia di gioga, hai ragione, io ne ho 35, cazzo, gli hai lunga? Il tempo passa. Ho figlia di 35 anni, me ne buccia l'arancio. E il tuo, Carlo, la tua quanti anni ha? Io ne ho 2, uno il maschio ne ha 23, e l'altra la piccola, diciamo, ne ha 16 e ne compie 17 il prossimo anno. Anche i miei stanno volando, capito? E noi ci stiamo appassendo piano piano. Sono rientrato, scusate che ho il telefono. Ehi, me l'ho immaginato, riprendi, entrato anche Fabrizio. Aspetta, mi devo allontanare, mi stanno chiamando, devo andare a mangiare, che oggi hanno cucinato presto. Sì, ma sono lavorare, 20, ma a lavorare devi andare. No, è così hanno fatto, cosa ne dico? Va bene, va bene. Buonasera, buon tutto, baci e abbracci. Vai Massimi. Ehi, positivo. Saluto a Fabrizio. Gianni non c'è. Gianni doppio. Oh, grazie al telefono anche lui. Gava gava, va bene, da, va bene, ho abbassato il volume. Mi hanno chiamato per lavoro. Per lavoro? Domani? Doppio. Sì, per domani, per domani. C'è da fare un po' di lavoro extra. E ciao. Ma tu scavatore non le puoi portare qua, no? E perché non le posso importare? Ma il mio, no, roba nostra, ti devi mettere d'accordo, ma possiamo andare a prendere a noleggio, io ho il patentino. E si può portare. Devo prendere anche un mini, vabbè. Anche un mini, vabbè. A bugare tutti gli sceroppi che ho davanti praticamente. Lì voglio fare un bello uno spiazzo, grande grande, capite? A prendere un po' di puli. Ma sa prenderlo il mini, te lo mini, però adesso non è più come prima, lo prendi il venerdì e lo restituisci lunedì, così te lo porti. Che te lo usi il sabato e la domenica e non funziona più così, i nuovi c'hanno il GPS, capito? E quindi paghi giorno per giorno, va. Allora, lo prendi un venerdì, lo usiamo sabato tutto il giorno e a voglia a fare travagli. Ma se vieni qua a pranzo, bisogna essere pratico tu. Devo guardare la parte praticamente davanti, perché devo stare fuori, è tutto pieno di rovi, di macchia mediterranea, ti fai a beffa, non fa entrare, come fai? Devo entrare prima con uno scavatore, anche col mini, far sedare tutto, dare una bella pulita, e allora puoi entrare, se no lascia i dati. Ah, ma poi col mini fai in fretta, capito? A pulire rovi e cose così fai al volo, capito? Poi con la lametta davanti dai una bella sistematina, in modo che ci può arrivare la fai larga che entra una macchina, capito? Un furgone. E poi se ti avanza un po' di tempo ti puoi sistemare qualcosina della strada, dare una spianata, là dove c'è qualche buco, ma con 25 litri di gasolio a voglia. Sì, sì, adesso è vero perché deve fare con quella roba che ha portato Angelo, deve fare buttarla all'interno, che c'è un fosso, riempire e fare un piazzale, un piazzaletto, capito, lui di fronte all'altra casa. Perché lui ha dei figli, a volte entra in macchina a mettere le balle e non fa, e quindi mi sta facendo fare un piazzaletto. Appena finito lui, mi metto d'accordo, ti avviso, faccio portare un po' di materiale e ci danno sistemata la trave e poi ci fa tutta la pulizia davanti proprio di fronte alla casa, diciamo, per poter mettere qualche liquorino. Certo, ci ho provato l'altra volta, ce l'ho già pronto un po', ma non fa perché capisce i dati. Ah, quando ci sono rovi così è un casino, capito? Bisogna pulire, fare, magari poi si porta un palo dove lo devi legare, si infila bene con lo scavatolino, se si fa un lavoro più ordinato, va, capito? Ma ormai lo vedeno di casa mi rimane innato con questo gatto di macchina avrea, che sa cos'è, una luce, lo sai. Macchina avrea, ma mio padrino è la macchina brutta. No, è quella, cos'è, una luce, quella nera, blu, cos'è? Sicuramente era a testa bassa per tenersi un telefonino, oggi mai mi rimane in alto. Strano, allora ci aveva quella nera lunga 600. Sì, cosa cazzo è supercar, cos'è questa macchina? Quella non c'era la macchina. Quella non c'era la macchina, non è d'epoca, diciamo, quella era una macchina americana. Un 2005 benzina, una cosa allucinante. Forse lì non c'è il coso del telefono, perché è una macchina, perché se non negli altri lì c'è il telefono incorporato, capito? Allora sicuramente stava guardando il telefono. In questo periodo è un po' stanco, mi ha detto, perciò bisogna stare attento. Guarda bene quando stai uscendo lì, sia che passa il razzo, avanti Carlo. Sì, sono ai fornelli, stavo manovrando, mi stavo asciugando le mani. Sì, se devi fare quel lavoro, uno scavottolino piccolino, penso che ti risolvi. risolva tutto e, come ti ha detto Massimiliano, esce un lavoro ordinato e pulito e anche insomma veloce, se vogliamo. E, più che altro io non lo so, ma Massimiliano sicuramente, se è del mestiere, già lo sa quanto ti costa, capito? Però sempre meglio farle bene le cose. Vai. No, io non voglio niente, e tu glielo usai. Non mi interessa i soldi. Io vengo, ti faccio il lavoro e me ne vado, non mi interessa né soldi né nulla. Guarda, uno scavatorino da 20 quintali, 17 quintali ti costa intorno alle 80-90 euro al giorno. Aggiungici altri 20-30 litri di gasolio, che è quello lì a spese tue, e il viaggio a portarlo, sia andata che ritorno. Se no che, claro, tu tramite qualche amico hai qualche dolce al camioncino, te lo fai portare. Sì, Angelo ce l'ha il camioncino, perché lui non ce l'ha lo scavatorino, gli avevo già chiesto, ma mi ha detto che fuori Sassari, capito, non pare sia a Buona Orba o a Bornana, o stanno facendo uno scavo lì, uno scavo lì, perché lui c'ha terreni anche fuori, né a Bornana, né a Tura, né a Ottieri, né a tutte le parti, capito, se no l'ha stato già fatto. È arrivato un attimino mia figlia, vi chiedo un 5 minuti di query, ci arrivo subito, riprendi Carlo, fai compagnia a Massimiliano. Giacla, sì, Massimiliano, quindi se secondo te quando, in una giornata ci riesci a fare tutto il lavoro, o più di una giornata il lavoro di Claudio sarà? No, per me non c'è neanche mezza giornata di lavoro lì. Se si tratta solo che deve togliere il ruvi e dare una speratina così, io penso lì in 3 ore, 4 ore esagerato, ma fai anche mezza giornata, tanto te la prendi con comodo, e in mezza giornata si fa tutto. Allora sì, già è fattibile, dai, se quando gli va bene, sì, se ha il problema che non riesce neanche a stendere un dipolo, perché lui spazio ne ha lì e sicuramente facendo quel lavoro lì ha voglia che lo mette il dipolo. Poi con la ruspetta, così se si fissa due estremità, due pali ben scesi nel terreno, a voglia, fa anche un bel lavoro, capito? E ya, bene me, da Gianni Doppio Room sei rientrato? Vediamo se è rientrato Massimiliano. Sì, io sono qua, dai. Stavo facendo roba al telefono. Ok, dai. Ma c'era anche Giovanni che stava scendendo da Coso Ricco Grongiano, l'abbiamo chiamato, ma non so se sei arrivato a casa sua. Giovanni, ci sei? Ci sono, sì, ma senti sempre gli eneri mantenti. Oramai la giovato l'abitudine. Davvero mantenti comunque. Veramente ti abbiamo chiamato sia io che Claudio, non hai risposto, ti abbiamo chiamato 2 o 3 volte, pensavamo che eri sceso dalla macchina, boh. Se mi avete chiamato a caso vuol dire che non mi sentivo più, no? No, da voi sono vicino, gallerie, su gatto, ma era di sempre mantenti, ma non c'è problema. Andiamo, riprendi allora, dai, fai girare, Gianni ho più rumo e Carlo c'è. Gianni l'ho salutato prima, a capo non ho ancora salutato, poi avevo sentito Fabrizio che saluto e via, dai, già sono quasi arrivato adesso. Ciao Geova, io già ti ho sentito da quando eri a Codrongiano, perché avevo acceso allora. Poi sì, Claudio ha provato a chiamarti con Massimiliano e infatti Claudio ha detto magari è nella zona delle gallerie lì e non ci sente. E poi già lo sai, le chiacchiere, una tira l'altra e adesso Massimiliano si è ricordato. Vai Geova. Sei arrivato adesso Giovanni? No, sono subito nella stradina di casa, infatti adesso chiudo e vi devo salutare tutti quanti. Via Giovanni, ce la risentiamo, ma hai ripreso a lavorare? No, era oggi, ho fatto la tappa. Ho capito, va bene, dai, ci sentiamo, buona serata, buon rientro, alle prossime, vai Massimiliano. Ok, dai, Giovanni, scusaci allora, dai, se non ti abbiamo rilanciato, eh. Adesso mi è venuto in mente, ho detto, ah, c'era Giovanni, Va bene, ok, dai, buon rientro, buon tutto, buona serata, buona continuazione. Gianni doppio ru, ripeti. Ehi, scusa, stavo parlando in verticale, non ho capito chi sta andando via. Giovanni? Ciao Giovanni, ci sentiamo, dai, quando ritorni a casa magari rientra, dai. Buona serata, avanti Carlo. Via, già l'ho salutato io Giovanni. Niente, anche io adesso mi sto preparando per la cena e quindi sono ai fornelli un po' qua, un po' là, quindi per me mi servono 10 minuti, se ci siete dopo volentieri rientro, se no ce la risentiamo alle prossimine. Ciao Gianni, ciao Massimiliano, ciao Claudio se sei ancora in ascolto e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Scappa Carlo, dai, ci sentiamo, buona carica quando la fai, magari se siamo qua rientra, non c'è problema, dai. Ben sentito e grazie per il question. Ciao Carlo, buona carica a batteria, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Claudio, ho ripreso, vuoi riprendere o cosa vuoi fare? No, ma sì, ti lascio le batterie al mattino per vedere le cose, non mi serve anche un paio di pantaloni. Saluto a Carlo, un abbraccio a tutti e ci sentiamo domani. Ok? Va bene, ok, un abbraccio a tutti, ciao alle prossime, vai già. Ciao, ciao Massimi, ciao. E quindi già a posto la radio, tutto piazzato quasi. Cosa? No, ma non te ne è andato tu. No, già ti stavo rispondendo. Ah, no, scusa, pensavo che stavo lanciando a me, ripeti già. No, non ho capito, ma di cosa stai parlando, di quale radio? Il Galaxy. Il Galaxy sono arrivati in pezzi, ancora non li ha piazzati, non lo so se l'abbiamo fatto stasera, comunque ancora non l'ha fatto, capito? Comunque quell'apparecchio l'ho messo in banda laterale e va oltre i 100. Hai visto allora, c'ho ragione io. Ma in AM no però, in AM va sui 30. No, io non ci credo. Non ci credo, quei video che ti avevo mandato io ce li hai sempre. Cosa? Quei video che ti avevo fatto ce li hai sempre. Ah, me ne hai fatto di video, mi hai mandato l'apparecchio e basta, a vedere, non me lo ricordo di questi video, No, già ci sono i video, perché io me lo ricordo, te l'ho mandato il video. La voglia. No, io non me ne ricordo questi video, vabbè. E comunque già va bene, la radio non me ne ha fatti nulla, se ne da 30, se ne da 100, non me ne ha fatti nulla. Interessante che vada bene. E la voglia va bene già, è una bomboletta. Non è possibile, perché ho provato anche l'altro rosmetro e mi dava gli stessi watt, quindi non è, ho provato due rosmetri, sempre lo stesso, sempre 30, poi vado laterale e va oltre 100, quello sì. Allora guarda, io se non vorrei sbagliare quello lì con la adesso non me lo ricordo benissimo, con la marcia bassa mi sembra che dava intorno ai 15 watt e dava intorno ai 60-70 modulati in PEP, parlo però, non una VG, in PEP, invece con la marcia alta mi sembra che mi dava 25-30 watt di portante bianca e intorno ai 90-100 modulati. Da 3 watt massa e poi potenza alta e da 3. Allora mi ricordo male. Picchi di modulazione ne ha. Da 30 va a 35, da. Già fa brioche. No, già va bene allora. Cava. Se poi parla voce alta va anche a 50. E infatti io mi ricordo una cosa così, no vabbè, piccola modulazione. Allora quello mi sembra che abbia i finali del 440, mi pare. Mi sembra l'avevo visto una volta in una scheda tecnica. Ma la scheda è PLL. Cos'è? Il circuito PLL o SMD? No, dovrebbe essere, non lo so, credo che mi sembra che sia SMD, dovrebbe essere. E com'è possibile? C'è un apparecchio già di un po' di anni fa che sia SMD. Aspetta che guardo se mi dà lo schema elettrico. Cos'era? Allora, Cobra, cos'era? 200? GT. GTL? Ma dovrebbe essere SMD. perché una volta su Roger Cup avevo letto questo qui che ha scritto che l'unica cosa che c'ha con l'apparecchio è che la scheda SMD, se si rompe qualche componente è un casino aggiustarlo, però per il resto ha scritto va benissimo come watt, e ha detto la stessa cosa che dava 120 watt, 100, 120 watt in banda laterale e sui 30 in AM. Allora già, io lo schema elettrico l'ho trovato, mi dà una foto, però vai a comprendere due, io non ricomprendo nulla. E vabbè, là c'è BD Massimiliano. C'è tutto comunque già, vedi? Aspetta. Comunque qua da... Sì, 3 watt, quindi io potrei anche attaccare al minimo. Sì, ho voglia. Aspetta. Hola. Massimiliano, come va? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, al DB del Galaxy. Mai arrivato così forte. Va bene. E la radio è sempre buona, eh. Guarda che ti sto inviando questa cosa. Eia. Poi chi ne capisce già lo sa. Io non le comprendo nulla. Qua potenza minima ne dà di più di 10. Potenza minima? Ma non erano i 3 watt prima, ma adesso dite, come è la cosa? Avevo sbagliato, da 9 watt da con picchi. E picchi a quanto arrivano già? Ma quel rosmetro che sei tu, il PEP non ce l'ha, vero? No. Ecco perché. Devo guardati il PEP. Vabbè, due secondi. Cabarala. Ora lui, guarda, con i fischi arriva a 50. E marcia bassa? No, alta. E invece è marcia bassa quando arriva col fischio? 20 e passa. Se c'erano dei picchi allucinanti. E anda bene. Va bene, dai già, ti lascio che scendo giù che mi ha chiamato Muzere. Vediamo cosa vuole, là. Non so se riprendo, eh. Ok, ti saluto già, buona serata. Ehi ragazzo, ci sentiamo Massimiliano, buona carica quando la fai. Via, controllati quella roba WhatsApp a vedere se ne capisci qualcosa, o magari mandala al dottore e vedi un po'. Ok, adesso a posto. Andare, ciao.